giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Flusso di migranti a Trieste in calo e migliora la situazione dell'accoglienza, ma si tratta solo di una fase. Torna l'incertezza tra gli ambulanti di Pordenone dopo l'ok al disegno di legge di riordino del commercio. Prevenzione dei tumori, più diagnosi in regione, ma si recuperano i ritardi sugli screening al seno. Tetti scoperchiati e alberi caduti in Carnia, la montagna ieri spazzata da raffiche fino a 150 all'ora. Sport, torna in campo l'Udinese, trasferta a Torino contro i Granata, Sottil, cerchiamo i tre punti. Basket, tifo d'altri tempi per la pallacanestro Trieste che sfida Milano sull'onda degli ultimi successi. 8:30 di domenica 5 febbraio, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli in apertura di giornale Radio 1, sguardo alla situazione meteo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile, su pianura e costa, sereno sui monti, a Trieste 3 gradi, le raffiche di vento da est-nord-est hanno superato i 70 km orari, a Pordenone a Gorizia 2 gradi, a Udine 0, a Tolmezzo a Forni di Sopra meno 3 gradi e mezzo. Sul Piancavallo meno 7,5, a Sappada e a Tarvisio meno 8, sul Monte Zoncolan meno 6,5, meno 8,5, sul Lussari, sulla costa Lignano 7,5, grado 4. Queste le previsioni, sui monti cielo in genere sereno con possibili nubi basse di primo mattino nel fondovalle tarvisiano, su pianura e costa cielo variabile o temporaneamente nuvoloso nelle ore centrali, sulla costa al mattino soffierà bora moderata in calo nel pomeriggio, mentre in alta quota vento moderato e gelido da nord, giornata più fredda del giorno precedente con temperature massime in deciso calo. Rotta balcanica, l'arrivo quotidiano di migranti a Trieste è sceso negli ultimi giorni dopo un periodo di ingressi massicci, ma si tratta di un calo stagionale e il fenomeno non è destinato a fermarsi. Dopo il picco dei mesi scorsi la frenata, rallentano gli arrivi di migranti dalla rotta balcanica e va di conseguenza riducendosi sia pure lentamente anche il numero delle persone costrette a cercare ripari di fortuna nelle notti gelide. Don Alessandro Amodeo, direttore Caritas Trieste. In questo periodo generalmente sempre c'è stato un calo degli arrivi dei migranti. Quest'anno è stato molto particolare perché questo calo si è verificato molto recentemente, direi negli ultimi 10 giorni. Prima avevamo numeri alti di arrivi quotidiani, numeri alti intendo anche sopra le 100 unità. Adesso, proprio ultimamente, in quest'ultima settimana, i numeri sono molto ridotti. Siamo alle 10, 15, 20 persone al massimo. Il comune intanto ha accantonato l'ipotesi del dormitorio in via Gioia. Tuttavia è chiaro, commenta l'assessore alle politiche della sicurezza Maurizio De Blasio, che la riduzione degli afflussi è legata alla stagione, ma si tratta di un fenomeno che non è destinato a fermarsi. Faremo i ragionamenti che servono, ma auspichiamo dal governo nazionale risposte che ci consentano di lavorare su numeri differenti. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Fra i punti del disegno di legge regionale di riordino del commercio appena passato in consiglio c'è anche quello degli ambulanti, già al centro di un'avvertenza con il comune di Pordenone. Invece di dire grazie che i mercati così è meravigliosi, perché accumula tutte le persone, frequentare il mercato è una grazia, perché ti scambia ciaccole, te vede. Ma se ti fa dei banchi tutti uguali, no, nessuno più interessa. Al mercato di Pordenone sono preoccupati gli ambulanti. La nuova legge regionale sul commercio infatti non è retroattiva e il bando dei mesi scorsi del comune di Pordenone, che riassegna le concessioni per le bancarelle secondo nuovi criteri e in accordo con la direttiva europea Bolkestein sulla concorrenza, rischia di far gettare la spugna a molti. Il comune prende tempo, serve qualche giorno per gli approfondimenti del caso, dice l'assessore al commercio Elena Ceolin, ma il suo predecessore, l'ex vice sindaco Emanuele Loperfido, oggi deputato per Fratelli d'Italia, rivendica la scelta fatta, mentre le opposizioni passano all'attacco. L'amministrazione comunale è con le spalle al muro, dice il consigliere regionale del PD Sergio Bolzonello, così si rovina il mercato di Pordenone. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La giornata contro il cancro, celebrata ieri in tutto il mondo, ci ricorda che è davvero l'ora di prendere sul serio la prevenzione e mettere un argine ad abitudini poco salutari come fumo, eccesso di cibo, spazzatura e alcol, sedentarietà. Il tumore più diffuso è quello al seno, colpisce una donna su 8. Le diagnosi di tumore sono in aumento. In Friuli Venezia Giulia se ne contano 22 al giorno. Il tumore più diffuso in assoluto colpisce le donne, con 1.300 nuove diagnosi all'anno. È quello al seno, un po' più frequente in questa regione rispetto al resto d'Italia. Perché? Facciamo più screening, spiega Fabio Puglisi, direttore di oncologia al CRO di Aviano e professore di oncologia medica all'Università di Udine. Nonostante i ritardi accumulati durante la pandemia, spiega, ora siamo abbastanza al passo con i test. La prima causa è l'aumentata durata della vita. I tumori in generale sono sempre più comuni perché si va avanti con l'età. Un po' sorprende che un altro importante fattore di rischio del cancro al seno sia l'alcol. Dal 22 al 24 febbraio Udine ospiterà il 20° focus nazionale sul carcinoma mammario. La giornata precongressuale sarà aperta al pubblico anche online. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale ieri pomeriggio nei boschi tra Navaronse e Frisanco, in comune di Meduno. La vittima, un 48enne, Rudy Santini, travolto dal tronco di un albero appena abbattuto e che stava trasportando con un amico verso la strada. Sul posto personale medico SORES, soccorso alpino e vigili del fuoco. E torniamo a parlare di meteo. Previsioni rispettate ieri con il vento che ha spazzato con violenza la Carnia, provocando diversi danni. Un sabato mattina di apprensione super lavoro per il personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco nelle località montane del Friuli Venezia Giulia. Forte raffiche di vento, come previsto dal servizio meteorologico, hanno spazzato tutta la zona montana, provocando qualche danno a strutture e la caduta di diversi alberi, soprattutto in Carnia. Raffiche di vento a quasi 150 km orari sullo Zoncolan e a 120-130 km oltre i 1500 metri. Suan Selenati del rifugio Tamai. Stamattina le condizioni erano assolutamente proibitive. E sembrava che andasse così per tutto il giorno, e infatti molti purtroppo sono rientrati subito a casa e adesso è assolutamente una giornata normale. Danni al centro Biathlon di Forni Avvoltri, mentre i volontari di Protezione Civile di Forni di Sopra e di Forni di Sotto sono stati impegnati per il taglio di alberi schiantati a causa del forte vento anche lungo la viabilità e su un'autovettura sulla quale viaggiava una famiglia, fortunatamente senza causare danni alle persone. Forni di Sopra, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ogni giorno a gennaio abbiamo sprecato a testa poco più di 75 grammi di cibo, anche se l'86% degli italiani si impegna per consumare tutto ciò che cucina. Sono dati dell'ultima indagine dell'osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market, campagna Spreco Zero, che arriva in occasione della 10ª giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Dopo il Covid si nota che per un italiano su 3 sono diminuite le colazioni e i pranzi al ristorante, mentre per 4 italiani su 10 anche l'abitudine della cena fuori. Diventano centrali i temi relativi alla sostenibilità alimentare ed è cresciuto il consumo di legumi a scapito delle proteine animali. Si può però migliorare e abbiamo chiesto come fare al professor Andrea Segre, agroeconomista dell'Università di Bologna. In un anno ognuno di noi butta via 27 kg di prodotti alimentari ancora buono: insalate, frutta, frutta fresca, verdura, pane, latte, prodotti ancora buoni che finiscono nella spazzatura. Il valore è ben 6,5 miliardi di euro in un anno. Cosa possiamo fare per evitare questo sperpero inutile? Fare una lista della spesa, acquistare ciò di cui abbiamo veramente bisogno, usare al meglio il frigorifero in modo da utilizzare le temperature che poi aiutano la conservazione dei prodotti. Se cuciniamo qualcosa di più, gli avanzi sono sempre buoni anche il giorno dopo. Però le aziende non ci aiutano con il confezionamento del cibo, che spesso ci porta a comprare più di quanto abbiamo bisogno. In realtà il confezionamento, il packaging, serve proprio a non sprecare, perché altrimenti il prodotto deperirebbe prima, non potremmo trasportarlo. Il tema è, da un lato, utilizzare materiali sostenibili che poi si possono veramente riciclare e fare anche delle confezioni adeguate in modo che poi ogni consumatore possa soddisfare le sue esigenze. Ora lo sport, cominciamo dal calcio. L'Udinese a Torino per affrontare il Granata alle 15. L'allenatore Andrea Sottil si è detto sicuro delle condizioni dei suoi. E oggi la squadra sta bene. Sta bene fisicamente, tutti quanti dentro a livello motivazionale, con un grande senso di appartenenza, con una grande voglia di continuare a sfornare prestazioni importanti, e quindi tutto ciò l'ho visto anche in questa settimana, dove ho visto la squadra concentrata solo sul presente e solo andare a fare una grande partita a Torino. Per la Serie C, la Triestina, in crisi di risultati e guidata dal neo mister Gentilini, accoglierà la Pro Sesto al Rocco alle 14.30. Alla stessa ora il Pordenone, invece della testa della classifica, andrà a far visita ad Arzignano Valcampo. Ed è un'altra giornata piena per il basket regionale e le ultime vittorie della Pallacanestro Trieste riaccendono i supporter. Non ci sarà il tutto esaurito, ma il colpo d'occhio sarà quello dei vecchi tempi, di quando prima del Covid gli abbonati superavano quota 4.000. L'arrivo della nuova proprietà americana e le 4 vittorie consecutive hanno riacceso la passione all'Allianz Dome, superata quota 5.000 tra abbonamenti e biglietti per la sfida alle 17 all'Armani Exchange Milano, campione d'Italia. Con le scarpette rosse non è mai una partita banale, dal trasferimento di Stefanelli in Lombardia nel 94 e memorabile l'istituzione dei gadget l'anno dopo a Chiarbola, alla vittoria triestina dell'anno scorso contro la corazzata di Ettore Messina. Trieste arriva alla sfida con il vento in poppa in senso letterale, divisa grigia per celebrare la Bora Scura, iniziativa di marketing che sa tanto di Stati Uniti. A proposito di USA, esordio per il centro Terry che sostituisce il deludente Packer andato a Cremona. Trovare nuovi equilibri a una macchina che stava funzionando bene non sarà facile, ci conta Marco Legovic, che di fronte a Messina può però giocare con la leggerezza dei 30 anni. L'avversario, alla sua età, vinceva la Coppa delle Coppe, altri tempi. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E continuiamo con il basket. In A2 l'Apo Udine cerca il riscatto dopo la disfatta di Bologna. Di fronte alle 18 a Carnera c'è Mantova. E la stessa ora, dopo lo scivolone con 100, cerca il ritorno alla vittoria anche Cividale, impegnata a Nardò. Per il basket femminile di A2 torna a vincere la Women Apo Delser, che batte in trasferta Alpo Villafranca per 77-67. Futurosa Trieste si arrende invece sul finale, sul parquet di Treviso, per 64-62. In Serie B maschile la Pontoni Monfalcone batte Capodorlando per 92-74. E per la pallanuoto, ieri in A1 maschile Trieste ha chiuso sul 10-10 il match alla Bruno Bianchi contro la Distretti Ecologici Roma. Nella A1 femminile le Orchette sono state sconfitte a Rapallo per 16-12. Per la pallamano Trieste battuta in trasferta a Belluno 24-22 il risultato. Via ai mondiali di sci alpino in Francia. Per il Friuli Venezia Giulia parteciperà la tarvisiana Lara Della Mea, che sarà impegnata il 18 febbraio nello slalom e probabilmente il 14 nel parallelo a squadre miste. E ha il suo terzo mondiale e si sente pronta per l'appuntamento iridato. Lara Della Mea, 24 anni, tarvisiana, è stata convocata per i mondiali di sci alpino che si svolgeranno dal 6 al 19 febbraio sulle nevi francesi di Courchevel-Méribel. In questa stagione di Coppa del Mondo i risultati in slalom sono stati tutto sommato soddisfacenti, alternando buone manche a prove deludenti. Devo cercare di sciare sempre come so fare, certe volte magari non riesco a esprimermi al massimo. Sono sulla strada giusta perché sto facendo dei grandi passi avanti. Ai mondiali Della Mea, oltre che nello slalom, dovrebbe gareggiare nel parallelo a squadre, dove c'è più probabilità di andare a medaglia. Sicuramente le possibilità ci sono sempre, in qualsiasi occasione. Ovviamente sì, bisogna allenarsi, sentirsi in forma, noi ci crediamo sempre. Tarvisio, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora alcuni appuntamenti con gli spettacoli. Riparte la vetrina musica da camera, musica insieme a Pordenone per la mattinée di oggi. Il concerto dall'ensemble dell'Orchestra Sinfonica della RAI insieme al solista Davide Vendramin al bandoneon per un omaggio ad Astor Piazzolla e ai suoi celebri brani di tango, alle 11 all'auditorium del Centro Culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi. Mentre la giovanissima violinista svizzera Edna Unseld, di 11 anni, si esibirà oggi a Trieste da solista nel 9° concerto delle mattinate musicali internazionali organizzate dalla nuova orchestra Ferruccio Busoni nell'ambito di Una luce sempre accesa. Insieme a lei suonerà l'Accademia d'Archi Arrigoni, in programma musiche di Mendelssohn, Kreisler e Haydn, alle 11 nella sala Luttazzi del magazzino 26 in Porto Vecchio. Per gli appassionati di jazz, The Duke, un mito di nome Ellington, spettacolo della Trieste Early Jazz Orchestra alle 20 al Teatro Comunale di Bagnoli della Rosandra. E per gli incontri e per il ciclo Lezioni di Storia Ribelle, incontro su Giovanna d'Arco, una donna in armi, raccontata da Giuseppina Muzzarelli alle 11 al Teatro Verdi a Trieste. Nella giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, l'immaginario scientifico di Trieste al magazzino 26 propone esperimenti e dimostrazioni sul tema. Gli interventi informali e giocosi cominceranno dalle 11.30 e proseguiranno fino alle 15.30. Mentre per le lezioni di storia a Udine, nel ciclo dedicato alle opere dell'uomo, oggi la lezione del professor Costantino Dorazio dedicata a Piazza San Pietro. Inizio alle 11 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. E cominciamo la rassegna stampa con la pagina d'apertura del Piccolo, edizione di Trieste, con la Tirso. Licenziati via PEC 47 lavoratori, insorgono i sindacati. Rilievo con fotonotizia alla giornata dello spreco alimentare, con un viaggio nelle abitudini di spesa dei triestini. E poi le riforme, con le rassicurazioni del ministro per gli affari regionali e autonomie Roberto Calderoli, il Friuli Venezia Giulia avrà di più, non di meno, dall'autonomia regionale. Spazio alla storia della triestina Giada Furlan, da 10 anni comandante della sezione di chimica nel RIS di Parma, e ancora al caso Campanile. I parenti delle vittime dicono: ha ucciso i nostri parenti, è giusto che paghi. Il commercio in cerca di 15.000 stagionali, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine, mancano anche decine di farmacisti per i laureati, subito un lavoro. Fotonotizia: per il vento di ieri danni in carni, accanto l'azzardo attira anche i giovani, famiglie aiutate dal centro. Poi il lutto di Forni di Sopra per Giordano Sanginiti, 21 anni, studente di medicina a Padova, morto in un incidente stradale in Veneto. Nella cronaca cittadina, le tariffe invariate dei nidi e il recupero dell'area ex Safau nel programma del candidato sindaco De Toni. Sul Gazzettino la fotonotizia è per il dono del Friuli al Pontefice: vengono da Trelli, frazione di Paularo, gli scarpez del Papa, e accanto infermieri Sores verso lo sciopero. Per il Piccolo di Gorizia e Monfalcone, in apertura la cessione dell'ex scuola Pitteri al Ministero della Giustizia, che impiegherà lo spazio per allargare il carcere. Il Comune incassa quasi 500.000. Anche qui la fotonotizia è dedicata alla giornata dello spreco alimentare. Si parla poi del Culturni Dom, travolto dalla batosta bollette. Il presidente Comel: la cultura non può chiudere. Mentre a Monfalcone la Giacic sarà la prima scuola media dell'Isontino a tempo pieno, con 18 iscritti. Spazio infine alla storia della cintura WBA del pugile Stefano Zoff, vinta nel 1999, scomparsa dopo un evento in Slovenia e restituita solo oggi. In prima pagina sul Gazzettino di Pordenone le polemiche sul locale di Fontana Fredda, che per regolamento consente l'ingresso solo alle persone nate in zona. Sotto la morte dell'uomo travolto dall'albero nei boschi ieri pomeriggio accanto siccità, è già partita l'emergenza. Sul Messaggero Veneto la fotonotizia: per l'incidente mortale di ieri pomeriggio a Saccile, probabilmente un malore, muore Claudio Modolo, segretario cittadino PD, la sua auto è uscita di strada. Di fianco anche qui l'incidente mortale nei boschi di Meduno, il caso di Fontana Fredda, respinta al club perché di colore, interrogazione a due ministri dalla senatrice del PD Tatiana Roiz. È la prima domenica del mese e oggi sono visitabili gratuitamente 12 dei musei civici di Trieste. Tra i musei aperti si ricordano il Re Voltella, il Museo Sartorio e il Museo d'Antichità Winckelmann. In occasione della giornata mondiale delle aree umide dello scorso 2 febbraio, Legambiente organizza una visita guidata alla riserva naturale dei laghi di Doverdò e Pietrarossa, ancora priva di un organo di gestione. Si inizia alle 9. Mentre verrà insediato oggi il nuovo pastore della comunità evangelica luterana di Trieste, Andrei Popescu. L'insediamento avverrà durante il culto solenne presso la comunità luterana di Trieste a Largo Panfili alle 10.30. Camminata meditativa lungo i sentieri del Friuli storico organizzata dal Museo di Ragogna. Si parte da Sezza di Zuglio. Appuntamento alle 9.45 a Tolmezzo nel posteggio della piscina. i programmi radiofonici nella sede alle 9:15, la seconda puntata del racconto sceneggiato sul lettino di Weiss. In televisione alle 9:15 su Rai 3 la prima strage, l'eccidio di Vergarolla in Istria, a seguire il reportage sulla 18ª edizione del premio Cesa prodotto da Folkest. Mentre su Rai Storia oggi alle 16 un ritratto di padre David Maria Turoldo, il frate poeta dei Servi di Maria, protagonista della puntata di Italiani per la regia di Antonia Pillosio. È tutto, in regia Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Manuel Bussani, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.